Le ore 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9. In modulazione di frequenza è www.ondarossa.info, naturalmente il nostro sito anche per sentirci via web. L'indirizzo email della radio è ondarossa@ondarossa.info. Ricordo naturalmente la nostra campagna di crowdfunding che si può trovare sul sito stesso, c'è un banner specifico e lì si può scegliere la modalità più adatta tra le varie, non ultima quella di passare direttamente qui in radio a San Lorenzo. Alle 22.30, 25 o'clock, che andrà a concludere questo 23 giugno del 2021. Salutiamo Maya e Nicolò Nocci in Sardegna, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Nadir Persegona di Os, That's the Carlo from Boston di Violent Knox. Alberto Clipper, Rosa Levita del progetto omonimo, Like Wake, Marco qui a Roma. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. Allora, andiamo da subito da Raffaele Pezzella, quindi a Napoli alla 8 Tower Records, etichetta parallela alla, diciamo, tra virgolette, più anziana, a Nest Play Sounds Group Label, e la 8 Tower cura soprattutto il lato più ambient e più rarefatto delle varie produzioni e ricerche di Raffaele Pezzella. In questa circostanza è andato a ripescare il primissimo lavoro di un progetto tedesco, appunto Dark Ambient, dal nome Schloss Tegal. Un album che allora uscì nel 1991 e Raffaele l'ha ripreso e rimasterizzato e rimesso in ordine un po' la track list. Si chiama Music from Madness. Quindi con molto piacere andiamo un po' a rivisitare questo pezzo di storia ambient, dell'ambiente più oscura. L'album si apre con Blood of Sacrifice e poi ci sarà la quinta traccia dal nome The Father is Omnipotent. Right quick, one line, what do you think should be done to your relative? I'd like to kill my so-called brother and pillar for the crap that both of them have caused over these years since they've left. Mm-hmm. Thank you. Sandy knew that this was the last so many people, including children, who were supposed to lie alive herself. Down. because I felt that I was smarter than anyone else. Abbiamo iniziato dunque con questo recupero provvidenziale di un album, il primo album di Schlosste Galle, questo Music from Madness, in origine uscito su cassetta nel 1991 tramite la State of Flux, e contiene materiale che andava dal 1986 al 90. Li ricordiamo Mark Burke e Richard Schneider, americani, e il nome invece prende spunto da un castello vicino Berlino che durante la Seconda Guerra Mondiale veniva usato come ospedale psichiatrico per il recupero di militari attraverso il trattamento con arte e musica vissute come terapia. Schlosste Galle. Il tutto, come ho già detto, recuperato in due versioni, sia come autoproduzione sia e attraverso la 8 Tower di Napoli. Saluto Vulnus Eileen, anche loro hanno fatto uscire un nuovo lavoro che presto ascolteremo qui in radio, e Mariano Virdia ci sta ascoltando a Berlino. Invece adesso andiamo da un talento nostrano, un talento proprio qui di Roma, che ho colpevolmente scoperto, diciamo in maniera più completa, abbastanza recentemente. Sto parlando di Amtek. Di lui ho intenzione di intraprendere una vera e propria retrospettiva fino ai giorni nostri, per cui iniziamo proprio col suo primo lavoro, che uscì nel 1998 e che si chiamava Microcosmos. E d'altronde Amtek, dopo questo inizio improntato anche lui alla dilatazione più oscura, gradualmente si è spostato su cose più IDM, più spezzate e più affini, per esempio, a molto del materiale della Warp di Sheffield. L'album si apre con Visual Contact, registrato al Frontiera, un vecchio locale che esisteva qui a Roma, in questa circostanza un live del 1997, e poi un'altra traccia dal nome Hochtandr. Visual contact, going in for attack. Lampeggiavano continuamente. l'esperienza si trasforma in io sono prigioniero di qualcosa, so di essere sveglio, so di essere nella mia realtà, eppure è una realtà diversa, una realtà folle, orribile. Dentro di me a far sorgere una voce, un suono imperioso, ma nello stesso tempo calmo, quasi metallico, con delle intuizioni metalliche. E questa voce, questo suono mi suggeriva di stare calmo. Simili a noi esseri umani di questo pianeta, vestiva una tuta, una combinazione di volo non molto aderente. Quello che mi colpirono soprattutto furono gli occhi, immobili, occhi profondi con un taglio orientale. Ancora Amtech, il buon Alessandro Marenga, che vado anche a salutare, un'altra traccia da questo microcosmos, e questa si chiama Octandre. Abbiamo fatto conoscenza ordunque con Amtec, con questo esordio del 1998 dal nome Microcosmos. Ci siamo ascoltati Visual Contact, che conteneva un campionamento di una persona, o meglio di una trasmissione che parlava di avvistamenti UFO e di eventuali alieni esistenti sulla Terra, che in maniera abilissima è stato appunto campionato da Alessandro Marenga dentro questo brano di apertura. Il talentuoso artista romano Alessandro Marenga e questo Microcosmos ce lo andremo ad ascoltare anche nelle prossime settimane. Saluto Alessandro Marenga intanto. Ricordiamo questo Microcosmos che esce attraverso l'Eclectic, etichetta proprio dello stesso Alessandro. Intanto saluto anche Enrico Ponzoni di Sokushinbutsu Project. Una bella avventura sonica insieme a Massimo Oders e Mascheroni, Nicola Locci di Stigmate, Andy Rivieni di Attualità Nera, Laura. E il buon Daniele Ciullini, altro pezzo di Story Industrial. Insomma, Amtec, sentite che viaggio psichico attraverso la musica. Un viaggio che andremo appunto a riprendere mercoledì prossimo. Andiamo avanti. E andiamo da un personaggio invece ultra misterioso che porta il nome di Emito Kunst. Sappiamo, l'unica cosa che sappiamo, che questo lavoro, che porta lo stesso nome, è masterizzato da Simon Balestrazzi ed esce attraverso la Dissipazio di Nicola Quiriconi. C'è del kraut rock sghembo, distorto, malato, che si può apprezzare anche in questa What's Behind the Windows. Saluto anche Cecilia di Pindar, nuova avventura tra trip hop e post rock che presto ascolteremo in quel di Disorder. Mito Kunst, album di esordio per la Dissipatio, questa interessante ed emergente label di Nicola Quiriconi. L'attento Rico Ponzoni ha sottolineato una cosa che penso anch'io, ossia che in qualche modo si può riscontrare un qualcosa di malato, o meglio, i Sigur Rós più malati in qualche modo si possono ritrovare nelle note anche di questa What's Beyond the Windows di Mito Kunst. Quindi accenni anche di post rock. Per un artista decisamente elettroacustico, perché oltre alla parte elettronica, alla voce, ci sono anche percussioni, cimbali, l'organo farfisa che campeggia in molte tracce, il basso, il violino preparato. Nastri magnetici, eccetera, eccetera. Ancora un'artista italiana, lei invece è Rosa Lavita, questa volta invece in combutta con Naresh Ran, personaggio abbastanza noto nella scena ambient ed elettronico industriale. Questo è un sodalizio che ha partorito un 4 tracce dal nome Key, dove ci sono i tappeti sonori di Naresh Ran e le divagazioni col basso di Elena Micheli al secolo Rosa Lavita. Questa sera ci ascoltiamo la terza traccia che si chiama Iron. Mistress of the Rapture, the keeper of the keys. l'alto contenuto lisergico e visionario anche di Rosa Lavita. Rosa Lavita, Elena Micheli, che percuote le corde di questo basso tirando fuori un suono particolarmente cavernoso, mentre i tappeti sonori sono del buon Naresh Ran. Si chiamava Chi questa loro opera uscita l'anno scorso. Intanto saluto il buon Cobol Pongide in studi qui di San Lorenzo, ci ha portato un suo ultimo lavoro che studieremo e manderemo naturalmente da queste frequenze. Ci andiamo un po' in Belgio, un po' in Olanda per questo duo dal nome GNCNC con questo loro ultimo lavoro dal nome Deprecated. E qui veramente l'essenza elettroacustica è spinta ai massimi livelli, giacché i due si divertono anche a percuotere vari oggetti, tra cui biciclette, lamiere e oggettistica varia, con le quali i due si vanno veramente a divertire, il tutto chiaramente attraverso una loro sensibilità elettronica. Questo lavoro esce per la Nesplay Sounds Group e torniamo dunque da Raffaele Pezzella in quel di Napoli. E questa sera parte Think as a Spaces e poi la quinta traccia dal nome Will. GC Unseen Deprecated, abilissimi tessitori di questi flussi elettronici, un vero e proprio affresco policromo, disco ricco di suoni, di trovate geniali, di oscillazioni, il tutto naturalmente per la Nespresso Sounds Group di Napoli, di Raffaele Pezzella, del quale è anche uscito un progetto, diciamo, B rispetto a Sonologist, dal nome RAD, molto improntato sulla musica concreta, ascoltato oggi e apprezzatissimo, e chiaramente anche questo ce lo andremo a godere live qui in prove tecniche di trasmissione. Buonasera anche a Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. E di nuovo a Dez De Carlo che ci sta ascoltando da Boston, lei è di Violet Knox. Lì sono indietro di, credo, di 7 ore rispetto a noi. Torniamo in Italia con N, che di tanto in tanto si fa sentire, riemerge dal silenzio e ha stampato un mini album dal nome Senza Prospettiva, diviso in 7 tracce, ognuna delle quali si chiama prima, seconda, terza, prospettiva, eccetera, eccetera, e lo fa attraverso una nuova label dal nome Coda Fanzine Net, rintracciabile anche su Bandcamp. Ci ascoltiamo la prima, la seconda e la terza prospettiva. You're still alive.